La teoria delle stringhe è nata... È democratico perché... Per OGM si intende... L'effetto placebo... Da Bacon. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 23 gennaio 2010 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. Come sapete, cari radioascoltatori, in questa trasmissione normalmente ci occupiamo di scienza e di cosa se no. Questa volta però ci occuperemo di pseudoscienza e stiamo parlando di omeopatia. E ne parleremo col professor Giorgio Dobrilla, professore associato di medicina presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Parma. Buongiorno professor Dobrilla. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Professor Dobrilla, all'inizio noi abbiamo 100 parole per introdurre la trasmissione, quindi per cominciare in 100 parole le chiedo: che cos'è l'omeopatia? Beh, ne consumerò di meno. L'omeopatia è quella disciplina che si definisce di medicina alternativa, per cui i simili vanno curati con i simili. La frase sibillina in originale da Hahnemann, che è il suo inventore, suonava similia similibus curentur, che era un'esortazione di curare appunto una malattia con le stesse cause che l'hanno prodotta, magari in dosi molto più diluite. Se si confronta e si oppone all'allopatia, che sarebbe la medicina tradizionale, che invece cura le cose con il contrario di quelle cose. Faccio un esempio: un'articolazione gonfia, arrossata, si cura col ghiaccio; una malattia microbica si cura con un antibiotico. Nel caso dell'omeopatia viene curata con lo stesso fattore causale che ha causato la malattia stessa. Questo è uno dei tre cardini dell'omeopatia. È stato assolutamente telegrafico, adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi cominceremo l'intera trasmissione. E bentornati in studio, cari radioascoltatori, siamo al telefono col professor Giorgio Dobrilla, professore a contratto presso la Facoltà di Medicina dell'Università di Parma, e con lui stiamo provando a parlare di omeopatia. Prima di tutto cerchiamo di parlare della storia di questa, diciamo, di questo modo di curare le persone. Chi era Hahnemann? Allora, Christian Samuel Hahnemann era un laureato, un medico, si occupava anche di farmacia, era un esperto anche di farmacia, che nasce e opera intorno come periodo intorno a quello della Rivoluzione Francese, quindi fine 1700. Era sconvolto e disgustato, e non a tutti i torti, dei risultati della medicina ufficiale del tempo, e cercava di trovare delle soluzioni più benefiche per l'umanità e meno nocive. Perché dico così? Perché i mezzi della medicina allopatica del tempo erano clisteri, erano purghe, erano emetici, sostanze che facevano vomitare, erano sanguisughe, queste cose qua, che evidentemente erano poco scientifiche ma anche pericolose, per cui un'alternativa a questo pericolo poteva venire da un'altra concezione che appunto nasce, almeno nella sostanza, nella forma più ortodossa, con Christian Hahnemann, il quale punta a curare, e inventa lui quel concetto che abbiamo già espresso, inventa delle diluizioni, oltre a curare con la stessa cosa che ha prodotto la malattia, avendo provato che la dose alta però fa male, ha cominciato a diluire il fattore causale di partenza, diluirlo molto, sino ad ottenere, secondo lui, degli effetti pur essendo diluiti, quindi effetti positivi ma non tossici, mentre la medicina di quel tempo era più tossica che benefica. Senta, quali sono esattamente tutti i principi base dell'omeopatia? Beh, tre in parte li ha già riaggiati lei. Il primo è quella di curare il sintomo, di curare la malattia con lo stesso fattore causale che l'ha prodotta, anche se con alcune cose che diremo. Il secondo cardine è appunto quello della diluizione. Lui dice: se uso lo stesso fattore causale alla stessa concentrazione alta, provoco la malattia. Allora proviamo a avere una diluizione molto più diluita della sostanza di base e potremmo avere degli effetti curativi e non degli effetti patogeni. E quindi la seconda legge dell'omeopatia è le diluizioni centesimali, poi si saranno modificate, altri hanno fatto millesimali, eccetera eccetera, ma insomma quella classica è la diluizione centesimale. Cosa vuol dire? Un centimetro cubo della tintura di partenza viene portata a 100, quindi si diluisce fino a 100 volte, con acqua o con acqua e solvente alcolico, ma prevalentemente con acqua. Poi un centimetro cubo di questa prima diluizione centesimale si diluisce di nuovo a 100 e sarà la seconda diluizione centesimale, e via dicendo. Il problema è la terza, che mi diceva il terzo cardine, è quello che non bastava questa diluizione, ma per far acquisire al preparato una sua forza terapeutica doveva essere energizzato. Per energizzarlo, nella concezione di Hahnemann, questo preparato, in una provetta, poniamo una provetta che facciamo le cose più semplici, doveva essere agitato verticalmente per 100 volte, e a ogni diluizione centesimale, questa era l'ortodossia, bisognava, oltre che diluirlo, di succussarlo, agitarlo vorticosamente, velocemente, prepotentemente, in senso verticale, 100 volte, dopodiché si passava a quella successiva. Senta, due domande in una. La prima: l'omeopatia di oggi è uguale all'omeopatia di ieri? E la seconda cosa: in tutto questo, il fenomeno della cosiddetta memoria dell'acqua, di cui si è parlato moltissimo nel corso di questi anni, che cosa sarebbe per i medici omeopati? Allora, qui tocco un punto saliente, nel senso che la medicina ha avuto poi, dopo un primo elemento di successo, fautori, denigratori eccetera, sembrava la posizione di stallo, quando questa esperienza che lei cita della memoria dell'acqua sembra che venga a dare sostegno alla possibilità di una correttezza teorica dell'omeopatia. Cos'è questa memoria dell'acqua? Un immunologo, uno scienziato normale che lavorava a una specie di CNR francese che si chiama Inserm, Jacques Benveniste, dice di aver ottenuto degli effetti farmacologici su dei globuli bianchi del sangue, non entro nei dettagli per non complicare le cose, dice di aver ottenuto questo effetto, un effetto farmacologico, con una diluizione così diluita che sembrava impossibile alla scienza ufficiale che potesse fare qualche cosa, visto che dentro non c'era nulla. Però l'elemento ha fatto un grande scalpore, perché una rivista autorevole che è Nature, la stessa in cui si è scritto sul genoma e per cui gli autori hanno vinto il primo Nobel, quindi una rivista molto autorevole, ha pubblicato questi dati, ma è talmente scettica che ha imposto al Jacques Benveniste, a questo immunologo, che pubblicava il suo articolo solamente se lui consentiva la ripetizione dell'esperimento nel suo laboratorio francese di Clamart, in presenza però di 3 controllori. Jacques Benveniste accetta, questi 3 controllori, che erano il direttore della rivista, un esperto in trucchi e un altro esperto anche in frodi scientifiche, e il fallimento è totale in questo esperimento. La stessa verifica della bontà della memoria dell'acqua viene ripetuta 3-4 volte nel giro di pochi anni, una ricerca sponsorizzata anche dalla fondazione Rothschild, e si vede che è un fallimento totale. Quindi l'esperimento di Jacques Benveniste è una bufala, come si direbbe in linguaggio moderno, ed è accessibile stato di creare facili illusioni, se non che la memoria della gente è corta, ogni tanto riaffiora questa memoria dell'acqua e ogni tanto bisogna ridire come stanno veramente le cose. Una grande bufala non comprovata e che non gode di nessuna attendibilità scientifica. Senta, la Vox Populi a questo punto potrebbe dire: ma sono le case farmaceutiche che hanno modificato i dati originali. Quanto è vero e quanto è falsa questa affermazione? No, dunque, le case farmaceutiche tutte, come tutti noi, lavorano per il proprio profitto, anche lei lavora per il suo, io lavoro per il mio, non c'è niente di male che facciano profitto. Bisogna vedere se questo profitto è al punto di tacitare delle dati scientifici che non li comoda per oscurare la verità. Questo non è concepibile, primo per 2 serie di considerazioni. Piatto ricco, micifico, ci fosse stato qualche cosa di scientifico, tutta la grande Big Pharma si sarebbe precipitata a fare preparati omeopatici, perché non si guarda in faccia, pecunia non olet, il denaro non fa cattivo odore per nessuno. La seconda considerazione è che la Boiron è una casa di produttrici di preparati omeopatici che è largamente riempie i suoi forzieri largamente con preparati omeopatici, e anch'essa non fa altro che fare quello che fa un'industria normale, quella di produrre medicinali con l'intento primario di guadagnare il più possibile. Senta, siamo alla fine della prima parte della trasmissione. Le voglio chiedere una cosa. Nell'ambito della scienza, che cosa si definisce scientifico e cosa si definisce non scientifico? Perché tutta la definizione sulla omeopatia come pseudoscienza nasce da questa definizione. Guardi, questa è una domanda centrale che lei mi fa, la ringrazio per la domanda. Allora, senza nessuna posizione preconcetta per niente, però dei paletti li dobbiamo mettere, dei parametri li dobbiamo usare. Un criterio fondamentale di quella che si vuol definire vera scienza è, primo, che le cose che si ipotizzano, e per fortuna che c'è della gente che ipotizza anche cose originali, altrimenti la scienza sarebbe ferma, ma ogni ipotesi nuova deve corrispondere una verifica. Verifica significa che quello che dico io lo deve verificare indipendentemente anche altre persone, altri gruppi di lavoro, quindi la ripetibilità di questa questa prova che io do della mia ipotesi è una prova che io non devo dare, o una ripetizione che non devo dare soltanto io che sono l'autore dell'ipotesi, ma devono dare anche gruppi indipendenti che verificheranno se quello che dico io è vero o quello che dico io è una mia invenzione, sia che io sia in buona fede, sia che sia in cattiva fede. Il secondo concetto fondamentale per me, ancora più del primo, è questo, che la vera scienza è quella che sa di essere una verità parziale, che sarà modificata negli anni e nei secoli, ma è capace di modificare se stessa alla luce delle nuove scoperte scientifiche. Esempio lampante per i nostri ascoltatori, l'ulcera ha avuto 1000 ipotesi fino a 12 anni fa, l'ipotesi che venisse, che fosse da stress, che venisse da un virus, che venisse da una produzione, si è visto a un certo punto, e lì l'industria farmaceutica di allora ha buttato fuori una serie di farmaci assolutamente risibili che tutti noi, anch'io, a quei tempi non avevamo altre in mano, abbiamo cercato di usare sperando che fossero efficaci. Poi a un certo punto 2 signori che hanno preso il primo Nobel per questo dimostrano che l'ulcera nella stragrande totalità, maggioranza dei casi, è legata al microbo Helicobacter pylori, e che disinfettando lo stomaco con questo, di questo microbo, con degli antibiotici adeguati, si guarisce per sempre l'ulcera. Cosa succede? Che la scienza ufficiale a questo punto ha modificato tutte le corbellerie che aveva propinato fino ad allora, anche in buona fede, e si è adeguata a questa nuova scoperta, e oggigiorno l'ulcera dello stomaco e del duodeno sta praticamente scomparendo in tutto il mondo occidentale almeno, e i chirurghi giovani non sanno più operare l'ulcera. Questo tipo di scoperta rivoluzionaria per la scienza ufficiale ha lasciato intatto le teorie sull'ulcera, sulla terapia dell'ulcera per tutte le medicine alternative, omeopatia compresi. Quindi questo è il massimo, perché la verità scientifica di una disciplina è quella che sa correggere se stessa a mano che nuove acquisizioni fanno modificare l'esplicazione dei fenomeni. Questo vale per la scienza, questa è vera scienza, chi non si attiene a questo si attiene a una pseudoscienza. Perfetto, allora a questo punto ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio e poi ricominciamo con la trasmissione. Such bright blue eyes, and my girl always brings me a surprise. She got such smooth and creamy lies, so sweet, they're good enough to eat. And she hands them out when I show up for trick or treat. She always turns a trick or two, teach me that I don't know up from down, in from out or left, a little to the right. She sighs when I give up without a fight, as she's running my red lights. She whispers, hold on tight. Caroline, where do I sign up for her grapevine? Is there anybody there? I can never trace her line, and she won't tell me her sign. Got to make her mine. And I can tell when she's coming. I ain't so dumb. Well, there's a way that the earth moves, with some chick so wicked this week comes. She brings the earthquake weather. My pets put paws upon their eyes, and every time she climbs on board, I'm sure my ship is going to capsize. She's a mutiny besides, I feel like Captain Bligh. Caroline, I swear I'm gonna leave this girl behind. You know it isn't fair that she commits the crime, and I wind up doing time. I've got to make her mine. And she slides off sides, no flag, she's wide, and suddenly I'm caught in high tide. She's a walking homicide, drive by, super spy, and hi-fi. She's a KGB undercover dragonfly. My flight, no strings, it's a green light. Full time, free fall, yeah. And I say, ooh, yeah, it's alright. Don't you wait up for me to call. Professor Dobrilla, siamo di nuovo ritornati in studio per parlare di omeopatia, che è un argomento che stiamo ormai analizzando nei suoi vari dettagli. Abbiamo visto nella prima parte della trasmissione quali sono i principi base dell'omeopatia, chi era il suo fondatore, mentre nella seconda parte della trasmissione proveremo a capire come mai l'omeopatia è entrata così bene all'interno del nostro mondo. Cerchiamo di capire una cosa: esistono varie associazioni di medici omeopati, esistono varie persone che vanno dai medici omeopati, l'omeopatia è diventata ufficiale dall'aprile del 2009, come mai tutto questo succede se l'omeopatia è definita come una pseudoscienza? Beh, allora, guardi, la risposta facile, per la verità, è questa. La percentuale di medici che sono laureati, lasciamo parte quelli manco laureati in medicina, ma dei medici laureati in medicina che esercitano l'omeopatia è un'assoluta esigua minoranza. Allora, se partiamo da questo punto di vista, diamo più attenzione a quelli che si basano su dati scientifici per esercitare una pratica medica. Ci sono però una minoranza di medici che fanno. Questo è assolutamente incomprensibile. E di nuovo prendo in affitto una considerazione fatta da Garattini. Lei si immagini un farmacologo che insegna all'università a quelli che diventeranno medici, insegna farmacologia e gli dice che la dose di un preparato, se va al di sotto di un certo limite, non sarà più efficace, se va oltre un certo limite sarà tossica, e infatti la legge prevede una dose minima e una dose massima nell'ambito del quale intervallo di dosaggio bisogna che il medico prescriva. Immaginiamoci lo stesso insegnante che sia un omeopata e allo studente che ha sentito il giorno prima dire questo che ho detto, che gli dice anche che la farmacologia e la potenza del preparato sarà tanto maggiore quanto io più la diluisco. Allora questo esce laureato e non sa se per aumentare l'effetto terapeutico dovrà aumentare il dosaggio o diluirlo al massimo. Questo la dice lungo. La dice lunga anche la legge, perché la legge consente la vendita di un preparato omeopatico che nasce da una certa sostanza, ma che a partire dalla 12ª divisione centesimale non ha dentro che acqua pura, dice la legge che non può superare l'un centesimo, non può essere superiore a un centesimo della dose minima efficace. Allora la domanda è: se la legge consente che nel preparato omeopatico non ci sia più di un centesimo della dose minima efficace, perché deve essere consentito l'uso del farmaco normale che è 100 volte più potente? Quindi o delle due, o è vera la legge della farmacologia riconosciuta da qualsiasi autorità scientifica internazionale, o è vera l'altra. Un fatto, oltre alle opinioni, le porto un dato. Qui abbiamo fatto nella nostra provincia un'analisi, l'assessorato ha fatto un questionario per vedere quanti medici ritenessero opportuno aprire un servizio di omeopatia in un ospedale dei 7 ospedali che questa provincia ha, e quanti erano favorevoli e contrario, diviso per gruppo etnico tedesco e italiano. La risposta è stata 80% no, che non ci crede, non si deve usare quel tipo di medicina, e il 20% sì. Il perché questi 20% si ostinino contro ogni evidenza a fare questo è una cosa che è veramente incomprensibile, sotto il profilo scientifico è incomprensibile. Senta, la domanda che sto per farle è per appassionati di chimica, quindi mi perdoni, ma che cos'è il numero di Avogadro e cosa c'entra con l'omeopatia? Allora, Hahnemann era un onesto. Quando lui ha sviluppato la teoria dell'omeopatia, Avogadro non aveva ancora pubblicato i suoi dati, che sono fra l'altro quasi contemporanei. Quindi esce la legge di Hahnemann, la legge dell'omeopatia, e esce il numero di Avogadro. Però quando Hahnemann ha sviluppato la sua teoria, è onesto, in buona fede, Avogadro non aveva sviluppato il suo numero. Cos'è questo numero Avogadro? Lui ha calcolato un numero ormai adottato dalla comunità scientifica internazionale, la stessa che manda i satelliti, quindi non sono fole, sono cose che si materializzano. Avogadro ha mostrato che a partire da una certa diluizione centesimale, che è la 12ª, non c'è più dentro neanche una molecola. Lui ha potuto dimostrare questo. Lei si trasforma dalla diluizione 1 alla diluizione 2, ce n'è ancora un po', ma un po' di meno, dalla 2 alla 3 ancora un po' di meno. Quando si arriva alla 12ª diluizione centesimale non c'è dentro nessuna molecola, quindi si continua a diluire acqua con altra acqua, ma la si fa pagare come se non fosse acqua. Hahnemann non conosceva il numero di Avogadro, ma gli omeopati di oggi lo conoscono benissimo. Peraltro, a mia memoria, il numero di Avogadro dovrebbe essere 6 per 10 alla 23, e 10 alla 23 è anche il nome di un'iniziativa che si svolgerà fra esattamente 7 giorni nel mondo anglosassone, nel Regno Unito, un'iniziativa contro l'omeopatia, un'iniziativa che si pone il problema di cercare di spiegare alla gente che l'omeopatia non è una scienza ma è una pseudoscienza. Stanno partecipando i vari Richard Dawkins, James Rand, insomma un'iniziativa dalla forte connotazione. Ora, anche qui in Italia ci sono state varie manifestazioni contro l'omeopatia, contro le pseudoscienze, ma perché nel Regno Unito, nel mondo anglosassone, queste iniziative hanno maggiore eco, mentre quando le facciamo noi queste iniziative hanno un eco molto molto bassa? Ma guardi, purtroppo queste campagne si fanno anche in Italia e anche all'estero se ne fanno sempre troppo poche, ma non è tanto che siano poche le campagne contrarie, è quanto sono, siamo devastati da una informazione a favore delle medicine alternative, non solo dell'omeopatia, che è straordinariamente più frequente e più massiccia dell'informazione corretta scientifica. Per quanto riguarda le posizioni degli enti, ricordo nel 2000, mi pare 5-6 anni fa, nell'aula centrale dell'Università di Milano c'è stato un grosso convegno organizzato dall'Associazione 2001, che è fatta tutto di fisici, chimici, personaggi importanti del mondo scientifico, immunologi, farmacologi, eccetera, tutta proprio contro questo tipo di cose, e si è formulato anche una lettera, ho partecipato anch'io per quanto riguardava la medicina, si mandava una lettera in cui si esplicava fortemente al Ministero di non perdere tempo e energie per cose che non hanno nessun supporto scientifico. Naturalmente questo la stampa non l'ha ripresa, non l'ha ripresa la televisione, mentre se un soggetto che ha il raffreddore e mangia uno spicco d'aglio li va via, questo fa notizia. Siamo veramente la sproporzione tra l'informazione scientifica e la disinformazione scientifica. Tenga conto che in Italia esiste anche il Comitato Italiano per la Verifica di Fenomeni Paranormali o Pseudoscientifici, che è il CICAP, faccio parte anch'io dei consulenti per la parte medica, che si occupa costantemente di queste cose, ma la produzione di vera informazione, oggettiva, senza preconcetti, è niente in confronto alla massiccia informazione che abbiamo in Italia, fatta di giornali, di inserti e via dicendo. Senta, l'ultima domanda della trasmissione è questa, visto che ci abbiamo girato un pochino intorno, sì. Però l'effetto placebo in effetti esiste dal punto di vista medico. Sì. Dal punto di vista medico, però, possiamo definire che cos'è l'effetto placebo e perché c'è l'effetto placebo, o il grande mistero della medicina moderna? No, non è affatto un mistero, se mi consente una citazione vanitosa, ho pubblicato anch'io un libro che si chiama Il placebo intorno nel 2002, per pensiero scientifico, in cui si dice quello che si può dire e se ne sa ancora molto di più anche in questi ultimi anni. L'effetto placebo è un effetto serio ed è la reazione che l'organismo, principalmente il sistema nervoso dell'organismo, fa per muovere energie che sono fatte di sostanze chimiche dimostrabili, inibibili e incentivabili, e che non è affatto disprezzabile. Molte malattie sono fortemente passibili di guarigione o di forte miglioramento semplicemente con del placebo, per cui quando si dice che l'omeopatia o le altre medicine alternative sono dei placebi, non è assolutamente un'offesa, è riconoscere il merito che anche queste hanno in quanto effetto placebo, quindi non è un'offesa, e si offendono soltanto coloro che ignorano cos'è l'effetto placebo. Se gli omeopatici conoscessero meglio questo effetto, che ha addirittura delle valenze chirurgiche, ci sono degli interventi chirurgici citati ampiamente nel libro e in altre pubblicazioni, non solo mie, che dimostrano come l'intervento serve qualche volta più come placebo che come atto chirurgico in sé. Questo la dovrebbe dire lunga, e per coloro che sono in buona fede dovrebbe essere un elemento di grossa riflessione. Professor Dobrilla, la ringrazio per aver partecipato a Cacciafotone, saluto i nostri radioascoltatori, gli ascoltatori di Cacciafotone e di Radio Città Fucico. L'appuntamento è, come al solito, sabato prossimo, stessa ora, stessa radio e stesso fotone, con l'augurio di una buona scienza vera, tra parentesi, a tutti. Grazie professor Dobrilla. Grazie.